In occasione della 19ª edizione del Festival della Violenza Illustrata di Casa delle Donne per non subire violenza di Bologna e diciamo quest'anno anche in collaborazione con Pop-Up Cinema Scuole e il Liceo Artistico Arcangeli e Agiscuola Emilia Romagna, all'interno diciamo della cornice del nostro progetto Orfano Femicide Invisible Victim, abbiamo pensato a questo incontro per il 30 novembre dalle 9 alle 13:30, rivolto a tutta la comunità educante. Diciamo che oltre che il docufilm amplificato ci sarà anche la proiezione del cortometraggio Una questione di principio, realizzato dal Liceo Arcangeli, in particolare dai due prof che se ne sono occupati, quindi Silvia Moretti e Sandro Natalini, mentre per quello che riguarda Amplificadas le autrici sono Sonia Bertotti e Veronica Facchini, un docufilm del 2023. Diciamo che è l'occasione per noi di parlare del tema della sensibilizzazione all'inclusività e all'accoglienza delle diversità come diciamo strumenti fondamentali per prevenire la violenza e le discriminazioni. Questo è un po' lo scopo interattivo. Anche i film, il documentario e il corto insistono su questo tema, immagino, quindi. Esatto, l'obiettivo è proprio quello di fornire strumenti educativi per affrontare diciamo gli stereotipi e le discriminazioni, promuovendo una cultura inclusiva, quindi prevenendo anche la violenza di genere, perché sappiamo che alla base della violenza di genere vi sono proprio gli stereotipi, le discriminazioni in merito a questi temi, e quindi è proprio quello di affrontarli alla radice, anche attraverso una tavola rotonda con diversi professioniste e associazioni del settore. Amplificadas è proprio un lavoro specifico delle autrici che in qualche modo vuole raccontare un lavoro fatto in Argentina, anche perché diciamo che Veronica Facchini e Sonia Bertotti hanno fondato a Buenos Aires l'Oba Manada Audiovisual, cioè un collettivo che racconta storie con prospettiva di genere. C'è uno slogan nel movimento femminista che dice: non dobbiamo proteggere nostre figlie ma educare i figli. Da psicologa sei d'accordo? Assolutamente, diciamo che sono due in questo momento gli scopi. Lo scopo principale è quello di prevenire la violenza di genere, quella di riconoscerla. Per conoscerla in qualche modo dobbiamo parlare necessariamente di educare le differenze, di conoscere gli stereotipi, educare sì sia il maschile che il femminile a una visione più libera dei propri ruoli, che non sia intrappolata in stereotipi di genere che poi determinano quelle che sono le situazioni di violenza all'interno delle coppie, ma anche delle prime coppie, nelle prime relazioni intime di adolescenti. È molto vera questa frase, è vero che è importante in questo momento responsabilizzare e prevenire. Purtroppo, come in questo momento noi ci troviamo in un mondo ideale, è vero che c'è un fattore fondamentale che è quello della possibilità di proteggersi. Quindi diciamo che anche i centri antiviolenza nascono con questo duplice scopo, cioè cercare di cambiare il discorso politico e culturale sulla violenza di genere, ma allo stesso tempo dare un luogo sicuro alle donne che in questo momento la subiscono. Le istituzioni scolastiche del nostro territorio sono ricettive rispetto a questo genere di progetti? Io direi assolutamente di sì, per quello che riguarda almeno la nostra realtà specifica di Casa delle Donne. Io sono responsabile del servizio di psicologia di Casa delle Donne, ma anche coordinatrice per quello che riguarda la sensibilizzazione nelle scuole. È da tantissimi anni che noi promuoviamo laboratori di sensibilizzazione all'interno delle classi o nelle più ampie cornici delle assemblee di istituto. Devo dire che c'è un buono scambio, soprattutto ci sono alcuni professori e alcune professoresse molto sensibili al tema, che ci ingaggiano spesso in dei dialoghi all'interno delle classi. È vero che abbiamo fatto moltissimi laboratori, ormai il servizio di psicologia diciamo che è presente dal 2001 nel nostro territorio, e quindi i laboratori sono stati tantissimi, da progetti più grandi europei a metodologie come la peer education, piuttosto che interventi laboratoriali o di dialogo con i ragazzi e le ragazze delle scuole diciamo di ogni ordine e grado. Quindi direi che c'è un buon riscontro sul territorio, con più o meno delle difficoltà a volte relative ai fondi, naturalmente. Un'ultima domanda che riguarda invece le ragazze e i ragazzi: spesso si fa tantissima retorica su di loro, rispetto a questi temi sono ricettivi, sono sensibili? Allora, sono ricettivi, sono sensibili. Devo dire che nel corso del tempo io ho visto comunque dei cambiamenti, ragazzi e ragazze molto più informati e informate, con una differenza all'interno dei diversi contesti scolastici, quindi luoghi in cui ancora se ne parla molto poco, in cui lo stereotipo va da sé, alcune tolleranze rispetto alla violenza di genere sono molto più radicate, e luoghi invece in cui i ragazzi e le ragazze conoscono un po' meglio questi temi. Devo dirti però che nonostante ci sia grande impegno, grande interesse, grandi movimenti, anche grandi interrogativi rispetto al tema del genere, cosa che già 10-20 anni fa non c'era, ancora, ancora c'è bisogno di lavorare tanto, soprattutto per quello che riguarda la sfera emotiva, perché a volte i ragazzi e le ragazze sono molto competenti dal punto di vista cognitivo, magari nella pratica di tutti i giorni è qualcosa che può fuggire. Diciamo che è un po' la stessa cosa per gli adulti, per quanto ci possiamo lavorare, è importante non tenere un pensiero critico rispetto anche agli automatismi dello stereotipo nella realtà quotidiana, proprio perché tutti e tutte siamo cresciuti in questo contesto culturale. Quindi è un po' questa la strada, diciamo, educare a un pensiero critico e a un pensiero libero.